gente che sembrava lì solo per me. Tutti i blocchi di partenza, lo star ti luda. E poi il cuore che bruciava, e poi correvo come un matto, ma tutti gli altri erano davanti. Cos'è che non va? Brutta storia, dico corro, corro e resto sempre in fondo. Sono fuori allenamento pure, allenato il mondo. Certa gente riesce solo a dire sei fuori tempo. Resto lì per andare con i passi mio. Stan fischiando, stan fischiando. Va bene così. Perdi qui per mesi e per chilometri, finché qualcuno dice tu dov'è che stai andando, che siamo tutti qui. Io non vado da nessuna parte, io sto andando.